Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Sarei favorevole alla candidatura della cara Veronica nei liberi uguali. Milan, sei peggio di un ragno. Al momento giusto ti infili nel buco e non vuoi sapere niente, troncando ogni conversazione. Liberi uguali, finalmente liberi dalla critica di MDP. A Milan, sei solo un buonista dei miei pifferi. Buongiorno buonisti di tutta Italia, eccoci qui anche cattivoni e cattivisti, Noi... Cattivoni è bello. Cattivoni, che c'era Cattivic il personaggio. Cattivoni e cattivisti, anche con la K se volete li mettiamo. Buongiorno a tutti. La K di Cattivic viene subito bene, sì. Sì, buongiorno, che c'hai? Sei raffreddata, Veronica? Un pochino di... Da quanto tempo è che volevi dirmelo? No, è adesso che sento... Sono un po' raffreddata, cerco di dissimulare, ma un pochino sono raffreddata. Purtroppo, guardalo lì, è arrivato anche il signor Bonetti, il signor Leonardo Manera, funambolo terzo che si aggiungerà tra poco. Ma come funamboli siete noi tre, ma tutti voi anche, tutti voi italiani, tutti noi. Pensa anche Lorenzo Nespoli, anche Elisabetta Fusconi, stavo dicendo Elisa Pancaldi. L'ho sentito che stavi dicendo Elisa Pancaldi. Elisa Pancaldi è con noi. Diciamo una messa per Elisa Pancaldi. No, una messa no, una messa no. C'è Peter Bescafese che tra poco raggiunge le renne, tra le renne mi dicono. Ah sì? Sì, sì, sì, tra un po' sarà con le renne. C'è Peter Bescafese in regia, chi c'è lì in regia? Il nostro Alessandro Chiappini? Yes, evviva, evviva. Yes, yes. E allora Veronica, con la tua bella vocina nasale, se vuoi... No, ma dai, ma adesso per... mi vuoi prendere in giro tutto il tempo? No. Allora, cominciamo con Verò che te serve per le farmacie. Ma no, vabbè, ho dai. Ho fatto l'aerosol, però probabilmente mi servirebbe, che consigliavo a te a suo tempo, sì. No? Forse anche qualche spruzzetto per stappare il naso. Va bene, va bene. Adesso non devo dire con cosa l'aerosol. Prendete nota del numero invece se volete mettere le sigle, le vostre sigle in audio, eh. Ve lo dico con la voce nasale? Sì, vai. Allora, il numero è 349-238-6666. Dillo anche per il figlio di Anacleto. 349 registrare. No, 800 24 00 24. Sì, questo per chiamarci. Ne vogliamo dare un altro che ci inventiamo? No, no, adesso no, di fronte, no. Se vuoi dare il tuo cellulare. No, per, no, questi sono magari... i numeri per contattarci. Per contattarci, ci sono tanti funamboli che ci accompagneranno oggi in questa giornata che a Milano è festa. Oggi c'era niente traffico, è Sant'Ambrose. Ah, è Sant'Ambrose, infatti tutta Milano si è svuotata per il ponte, il pontone. Oggi... Ah sì, è tutto vuoto, ho trovato subito parcheggio, sì, quelle meraviglie. Figurati, domani è festa. E poi dite festa. Che i romani non fanno niente, hai capito? Eccoci qua. Sant'Ambrose, i romani non fanno niente. Allora Veronica, sei rimasta colpita, lo so, da questa cosa di Repubblica, dell'assedio a Repubblica. Piacere non mi ha fatto. No, vorrei certo che non fa piacere. Vorrei ripartire sempre con il rapporto del Censis, sì. Però vi risparmierò da questa filippica. Beh no, non trovo bello che un gruppo di Forza Nuova possa andare con le maschere sulla faccia davanti a un giornale a pretendere di dire cosa si può e cosa non si può scrivere. Perché fino a prova contraria la libertà di opinione ce l'abbiamo ancora tutti. Certo. Al netto degli insulti, dei deliri, degli improperi vari che circolano in ogni luogo. Quindi che un gruppo neofascista si permetta di andare a fare un blitz in quel modo, con quel livello di aggressività, minacciando pesantemente delle persone perché dicono quello che pensano, beh, non io credo che non vada bene. No, è che non sia nemmeno una cosa che fa sorridere. Cioè, inizia a stancare. Siccome una pagina come quella ha non so quanti, oltre i 200.000 like, ecco, inizia a diventare secondo me un problema, perché esistono degli argini oltre i quali non si può andare. Allora, 800 24 00 24, questo è il numero se volete intervenire in diretta, noi anche nel merito mi piacerebbe sapere che cosa pensate. Vogliamo partire però da che cosa? La vicenda dell'ATAC. Ieri avevo una pagina sul Messaggero, io sono intervenuto su Twitter, devo dire, lo dico subito al primo funambolo che tra poco ci raggiunge, anzi è già qui con noi, in maniera un po' dura devo dire, ma lui ci spiegherà tutto, vediamo di che si tratta. La vicenda la ricorderete quando un convoglio della metropolitana di Roma parte, si chiudono le porte, rimane incastrata per la borsa, credo, Natalia Garakovic, 43 anni, bielorussa, che viene trascinata per metri sulla banchina e con conseguenze gravi, 11 fratture al bacino, sì. Dice che non ha più i denti, operazioni chirurgiche, una situazione fisica abbastanza devastante, ecco. La notizia che ieri era sui giornali. Le immagini erano abbastanza agghiaccianti. Sì. Tutto il mondo le ha viste. La notizia che ieri era sui giornali, che il macchinista ATAC è stato reintegrato. Noi salutiamo l'avvocato del macchinista, Francesco Compagna. Buongiorno avvocato. Grazie di essere qui con noi. Allora, io dico, ieri sono intervenuto in maniera un po' dura a dire, cioè un paese che abbandona totalmente questa vittima, almeno stando a quello che dice lei, cioè non ha ricevuto una chiamata dall'ATAC, dal comune, neanche da voi, dice, cioè dal macchinista o da lei magari, dall'avvocato, e invece pensa al reintegro di un macchinista che probabilmente ha sbagliato, no? Possiamo dire almeno che ha sbagliato, avvocato? Purtroppo no. No, non ha sbagliato. Ah, neanche quello? Oh, che bella notizia. Ma è vero che stava consumando uno spuntino? No, ci spieghi perché non ha sbagliato, avvocato? Allora, il tema di indagine, che è un tema ovviamente tecnico, sta nello stabilire se con uno specchietto poco più grande di quello di un'autovettura sia possibile vedere ciò che avviene a 100 metri di distanza. È un po' la dimensione di un campo da calcio. Voi immaginate un portiere, sì, che guarda la sua porta e con uno specchio cerca di vedere cosa avviene nella porta. Va bene, lei lo mette sullo specchietto, però è vero che stava facendo uno spuntino, questo l'hanno visto tutti nelle immagini, stava mangiando qualcosa, no? Allora, il tema dello spuntino, secondo le valutazioni che ci sono state fino adesso, ma credo unanimi, non c'entra con l'incidente. Questo è un tema di cui anche si può discutere. Però è vietato mangiare in servizio. Sì, il tema è come possono alimentarsi dei lavoratori che hanno un turno di 6 ore. E quali sono le modalità più idonee? Certo, non fa bella figura chi mangia in servizio, credo che valga anche per tutti noi, no? Quando cerchiamo di lavorare l'atteggiamento deve essere consono e così via. Però credo che se spostiamo. Diciamo che però tra mangiare in servizio mentre si è davanti al computer e magari mangiare guidando, penso anche a noi guidando la macchina, non è proprio il massimo a livello di sicurezza e di gestione. Le do una notizia, avvocato: prima, mentre leggevo i giornali, mangiavo dei cracker, ma non è che avevo l'incolumità di una persona, nel senso, al limite mi strozzavo, ecco, se proprio il massimo che poteva succedere. Allora, ogni lavoro è diverso. Io dico solo che se parliamo del problema del mangiare, parliamo di quello, se parliamo dell'incidente, parliamo dell'incidente. Se le mettiamo insieme, non stiamo facendo un'analisi rigorosa. Però sul piano giornalistico si vive di associazioni e lo capisco. Dico questo, noi pensiamo davvero che la sicurezza della metropolitana sia affidata all'attenzione del macchinista in tutte le situazioni? Se no, fosse, è chiaro, è chiaro che ci devono essere dei sensori che dicono che una persona è rimasta incastrata anche per la borsa. Questo non c'è dubbio, ci vuole una tecnologia tale che dice questo. Però forse il fatto di mangiare forse l'ha distratto, ma non vogliamo fare il processo. Sembrerebbe di no, da quello che tutti hanno potuto rilevare. Però poi per carità, non sono io sono un avvocato e difendo una persona, non voglio essere io quello che... Voglio solo cercare di aiutare gli spettatori a capire come mai quelle immagini agghiaccianti di cui giustamente voi parlate non corrispondono necessariamente alla colpevolizzazione di un individuo, anche perché sennò così non aiutiamo nemmeno la sicurezza ferroviaria. No, avvocato, ma quindi secondo lei l'errore umano incide molto poco in episodi come questi? Cioè la soggettività del singolo autista non... Lei consideri che in molti siamo arrivati alle metropolitane senza guidatori in molte città europee. Sì, anche a Milano, cioè, per esempio. Una buona organizzazione della sicurezza richiede una precisa individuazione dei compiti di ciascuno, più che l'affidarsi a qualcuno, no, che dovrebbe avere l'attenzione. Ma vale nella sanità, nella chirurgia, vale nella circolazione stradale, nella sicurezza aerea. Purtroppo noi tendiamo sempre a cercare l'errore umano, ma è un fatto inevitabile. Sa cosa, no? È stridente in questa storia, avvocato? Sì. Leggere le esultanze sui social, ci sono state, dai, vai, reintegrato. E per carità, uno sarà contento di non aver perso il posto di lavoro. Dall'altra parte c'è una donna che dice: io, con tutto quello che ho subito, ne manco uno straccio di telefonata. Perché non avete fatto, per esempio, lei come avvocato, uno straccio, sì, di telefonata, di solidarietà a questa persona? Diciamo, anche solo simbolicamente, no? Sì. Agli avvocati è addirittura vietato prendere contatto con le controparti, prendono contatto con i loro colleghi. Però per esempio al suo assistito suppongo di no. Noi abbiamo uno scambio epistolare con la collega di controparte, c'è un tema di rimborso assicurativo che coinvolge anche l'azienda. Tenga presente, no, lei mi dice il mio assistito, ma il mio assistito è una persona che fa un lavoro normale come tanti e che ha vissuto 2 settimane asserragliato dai giornalisti con la famiglia spostata dai suoceri, quindi sa... Quando poi si parla dei comportamenti che dovrebbero tenere le persone, bisogna anche cercare di immaginare quali dinamiche si creano. Ecco, a proposito di lavoro, pubblici, a no? proposito di lavoro, le faccio questa domanda: fa un lavoro, lei dice, o ne fa due? Perché c'è anche questa di questione. Che avrebbe, scrive il messaggero, un doppio lavoro non comunicato peraltro all'ATAC, quindi violando un regolamento interno dei dipendenti. È vero che fa un doppio lavoro? È vero che in passato ho svolto anche altre attività per le quali era stato inizialmente autorizzato, poi su altri tipi di attività a un certo punto gli è stata negata l'autorizzazione e continuo si è conformato, a, no, si è conformato no. a queste indicazioni. Però vede, anche questo dà da pensare, come mai oggi, dopo questo incidente, si va a rivalutare la storia personale? Cioè è quasi come se si dicesse che siccome qualcuno è accusato di corruzione, controlliamo anche se si comporta bene con i figli. Cioè mi sembra che andiamo su una dinamica di ricerca delle colpe della persona. Ma che no, ma perché rimane da capire, non si vuole fare una crociata, però rimane da capire, ma se uno sbaglia, però lei ci sta dicendo che non ha sbagliato formalmente, ma se uno sbaglia può anche perdere il posto di lavoro? Guardi, io vivo a Roma, quindi tutto ciò che è il disfunzionamento dei servizi pubblici lo conosco benissimo e lo vivo anche sulla mia pelle e quella delle persone che conosco. E quindi c'è molto da interrogarsi su questo. Io dico solo attenzione alla strada del capo espiatorio, perché sappiamo bene che questa non è la strada per affrontare i problemi, ma anzi è quella per nasconderli, no? Si dirà che ha sbagliato Mario Rossi e tutto in quell'azienda continua come prima. No, io credo che si deve cercare di capire quali sono i problemi. In questo mi permetto di dire, il giornalismo di oggi a volte ci aiuta poco. No, ma lei, colpa no, sempre lei colpa nostra, sempre. Mannaggia, ma ragazzi, io mi sveglio con un senso di colpa tutti i giorni non riesco a dormire la notte, cioè, lo so, immagino. Ma si vede, poi basta guardarti la mattina. Ma invece no, avvocato, quindi lei ritiene sostanzialmente che la possibilità di influire su un episodio come questo dell'autista sia pressoché irrilevante. Quindi io mi domando quale sia ad oggi il ruolo dell'autista all'interno dell'ATAC, visto che non determina più o meno nulla dal racconto che lei ci fa. No, ad esempio in questo caso il ruolo dell'autista c'è ed è stato correttamente eseguito e riguarda l'azionamento dell'apertura e chiusura porte, nel senso che il sistema fa sì che debba attivare il sistema di chiusura delle porte quando si vede che nessuno sta entrando. In questo caso ciò è avvenuto, perché il problema è che questa signora era entrata e uscita più volte, non si è ancora... Vabbè, avrà sbagliato. Che ne però so. Mi scusi, avvocato, se lei dice che dallo specchietto non si vede nulla e che quindi era impossibile valutarlo, io non capisco come fa l'autista a valutare quando si possano chiudere le porte perché è arrivato il momento opportuno. Allora, tenga presente che il treno è lungo 100 metri, no? Sì. Su per giù, no? Qualcuno più di 90. Allora è chiaro che c'è un visuale molto buono sui primi. No, ma è chiaro che c'è un sensore. Vagoni. Il problema è che il sensore sullo spessore, se ho capito, del bracciolo della borsa non è scattato. Nel senso che il bracciolo della borsa è talmente sottile che non è scattato questo il sensore. Questo è il tema. Cioè, se fosse rimasta incastrata per un braccio, si sarebbe acceso un sensore al macchinista. Esattamente quello che è emerso. Il problema è che le misure di sicurezza che anche noi passeggeri siamo chiamati a osservare, in queste situazioni di metropolitana purtroppo possono fare la differenza, perché questo incidente ci aiuta a capire che non tutti i possibili pericoli sono soggetti a meccanismi di evitamento automatico. Sì, ho capito, però lei, lei dice non, non c'entra con l'incidente il fatto che mangiasse, però ecco, mangiare non si può fare. Quella è una violazione e non mi dica in sei ore come si fa a mangiare. Si mangia perché uno non può mangiare per sei ore, cioè non può stare a digiuno per sei ore. Mangia prima e sei ore dopo mangia. No, ma tutto è possibile se ci si organizza. Perché accidenti, non è che sei ore, che sono... no 16 ore, sono sei ore. Se uno mangia alle due, mangia poi alle otto, no? Poi detto questo, qualche responsabilità comunque sarà stata accertata, perché mi sembra che il macchinista sia stato comunque gli sia stato sospeso il certificato di abilitazione per guidare, no? Per condurre i veicoli, l'accertamento delle responsabilità, questa è una prima commissione interna che l'azienda fa, perché ovviamente valutare con immediatezza i fatti, c'è un procedimento penale con una consulenza in corso che sicuramente sarà più precisa e esaustiva. Sul discorso dei certificati di guida ci sono ovviamente delle procedure che fanno in modo che dopo che si verifica un esame del genere, un incidente del genere, comunque il macchinista dovrà ricominciare da capo il procedimento di abilitazione a quel sistema di guida. Ora non voglio farvela più complicata, poi conta anche il profilo personale. È chiaro che se ci troviamo di fronte a una persona che già in passato si è resa responsabile di comportamenti che fanno dubitare della sua idoneità, è un conto. Qui siamo di fronte a un macchinista che in precedenza aveva un curriculum, diciamo, quindi c'è anche questo. Poi se posso chiudere, chi sbaglia deve pagare, siamo tutti d'accordo, questo è uno dei grandi temi del nostro paese oggi. Però stiamo attenti, perché la pena efficace è la pena giusta, è quella che corrisponde. Sì, ma d'accordo. Altrimenti questo sì, ma per carità, noi infatti tutti, l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo chiamata senza per dubbio, anche avere un capro espiatorio non serve a niente. No, infatti noi l'abbiamo chiamata per fare chiarezza. Certo, intanto la ringraziamo, avvocato Francesco Compagna. Sì, lì c'è ancora un altro tema che è legato ad altri presidi di sicurezza, cioè ci sono anche dei meccanismi di sicurezza in banchina, perché noi quelle immagini che vediamo sono immagini che fanno vedere il punto di vista di chi è lì sulla banchina. Sì, che dovrebbe anche lì ci sono dei meccanismi che potevano essere attivati. Ovviamente tutto questo presuppone formazione, prontezza di intervento. Io se fossi lì in banchina, se c'è un metodo per fermare il treno, non lo so, se non vengo informato. Certo, ripeto, stride questo doppio destino, ma per carità, il destino di questa donna che tra l'altro verrà dimessa in settimana, non sa dove andare, con 11 fratture al bacino, senza denti, assistita da una sorella che manco parla bene italiano. Ecco. Una situazione abbastanza drammatica. E senza uno straccio di telefonata, dice. Ma magari lei dice, noi chiamiamo l'avvocato. Sì, effettivamente, il comune, l'ATAC, qualcuno che si facesse vivo. Ma lei ci sa dire, avvocato, se questa donna sarà minimamente aiutata? Ma questa donna, se c'è una responsabilità anche solo dell'azienda in generale, ha diritto a un risarcimento. Sì. Siamo in un caso in cui non stiamo parlando di persone che non hanno tutela, c'è una tutela giuridica assoluta in caso di incidenti di questo genere. Vabbè, per ora manco la telefonata, vedremo. Grazie avvocato, grazie, dobbiamo cambiare tema. Allora, intanto chiamateci, 800 24 00 24, se volete intervenire. Veronica, adesso dobbiamo parlare di furti, di rapine, di cose allegre. No. Reati al dettaglio. Reati, sì. Reati che ci sono, soprattutto noi abbiamo di fronte una ricerca. Salutiamo Marco Dugato, buongiorno. Buongiorno. Ricercatore di Crime and Tech, ha anche una qualifica di 7 righe, insomma, diciamo Crime and Tech comunque lavora con Transcrime e ha fatto un rapporto su furti, rapine, sistemi di sicurezza nella vendita al dettaglio, perché tra poco ci dirà delle cifre interessanti. Però vogliamo, siccome noi siamo funambole, vogliamo partire dalle storie delle persone, dalle storie degli italiani, degli stranieri che stanno in questo paese. Salutiamo anche il titolare di una libreria, la libreria La Memoria del Mondo, siamo a Magenta, in provincia di Milano. Luca Malini, buongiorno e grazie. Ti ha colpito molto questa storia? Ha colpito buongiorno questa storia, perché cosa è successo? C'è stato un furto di un libro nella vostra libreria. E quindi è stato rubato il libro rosso di Jung, giusto? È un buon libro. Proprio un furto da intenditori. Vabbè, esatto, diciamo, c'è stato questo furto e voi cosa avete fatto? Avete deciso non di sporgere denuncia, ma di mettere online, usare i social, nello specifico credo Facebook. Sì, esatto, esattamente. Per fare cosa? Allora, vi racconto brevemente la storia. Beh, innanzitutto la cosa curiosa è il libro, no? Il soggetto. Il libro Rosso di Jung è un libro meraviglioso, è un libro ricco di inconscio, di immagini fantasmatiche. Lo stesso Jung l'aveva definito Liber Novus. Per 70 anni è rimasto in un cavo svizzero, il manoscritto, poi qualche anno fa è stato pubblicato, e in effetti è un libro che attrae, interessa, parla di tutto quello che è l'immaginazione attiva, insomma un qualcosa di davvero importante e curioso. L'abbiamo messo in vetrina e ci siamo accorti che purtroppo in modo abbastanza repentino questo libro è scomparso. Sì. Quindi siamo andati a vedere dalle camere interne quello che era successo e abbiamo individuato la persona, no? Uh-huh. Però diciamo quello che mi interessava non era assolutamente l'idea di fare la cogna mediatica, ci sarebbe piaciuto, e in effetti poi in parte la cosa ci ha dato ragione. Sicuramente abbiamo fatto le segnalazioni di a chi il dovere, però risolvere la questione, ma facendo capire quello che poteva essere di fatto un errore. Avete pubblicato il video dicendo... Dice che era più a scopo educativo che non con l'obiettivo di farsi restituire il libro. Assolutamente sì, perché allora avevo pubblicato le immagini e nonostante quello che si pensi, che sono comune, no? Che tanti giovani sono magari leggeri, non sono attratti da alcuni temi, il tema della filosofia, della psicologia, della storia, vediamo un pubblico attrae, però pagando ritirando lo scontrino attrae. Qui c'è una buona notizia nella cattiva notizia, però diciamo, ho capito. Il furto di un libro deprime meno di tante altre cose. Sì, però in caso il furto c'è, quindi di conseguenza certo. Noi abbiamo segnalato e c'è stata una sorta di tam-tam mediatico, di comunicazione. E l'avete recuperato, e perché la persona... L'abbiamo recuperato. Ma è venuta la persona, proprio lui? Guardandovi negli occhi o ve l'ha fatto ritrovare? Come però dire? Questo momento western ce lo deve raccontare un attimo, questo incontro tra voi due. No, allora diciamo, non è stata una sfida alla Sergio Leone, però alla fine ci siamo detti... siamo stati in contatto e abbiamo potuto appunto risolvere in maniera molto serena. La libreria era chiusa, era sera, la persona è venuta, ci ha restituito il libro. Abbiamo cercato di capire, ma anche oltre alla dovuta sfregata d'orecchie, ma anche capire i motivi. La cosa che diciamo a noi ha fatto piacere è che sia venuta proprio la persona, no? Quindi è dovuto anche non ha mandato qualcun altro, esatto, tra l'altro esatto. Forse era anche minorenne. Le ha spiegato perché? Sono molto curiosa, cioè si è giustificato dicendo che aveva una passione particolare per Jung, oppure cosa le ha detto? Sicuramente l'interesse in maniera generica, ma anche perché diciamo da quello che abbiamo capito, perché poi ci mancherebbe, non stiamo mica lì adesso a fare un'analisi psicologica come Jung invece andava a fare, sì. È una persona sicuramente anche curiosa, no? Di conseguenza ha soddisfatto questa curiosità. Stia con noi Malini, perché Dugato, appunto, ripartiamo dalla cifra, poi dopo andiamo in pubblicità e la snoccioliamo. Allora, da questa ricerca in realtà avete dato questa cifra impressionante: 3,4 miliardi di euro è ciò che costa al dettaglio, al retail, se ci fosse un mondo senza ladri, quindi togliendo tutti i furti e quindi togliendo anche tutti i sistemi di sicurezza che sono costosi per prevenire i furti, risparmierebbero questa cifra il settore, 3,4 miliardi, Dugato. Sì, esattamente, questo è, come dire, ovviamente è una stima, nel senso che è impossibile avere un'indicazione precisa, ma è quello che noi abbiamo stimato, appunto sommando quella che è una stima di differenze inventariali, cioè sostanzialmente quello che dovrebbe essere nei magazzini e nei negozi e quello che poi quando si fa il conteggio fisico viene effettivamente contato, e la spesa che viene effettuata per quello che riguardano appunto le misure di sicurezza e di prevenzione. È una cifra impressionante. Quali sono i settori in cui si ruba di più o i settori più a rischio? Allora è difficile, nel senso che sicuramente ci sono quei settori dove ovviamente il famoso conversion rate, cioè il numero di clienti che entrano all'interno del punto vendita e poi effettivamente acquistano, è tendenzialmente più basso, quindi ovviamente sicuramente i settori della grande distribuzione organizzata, banalmente i supermercati. o i negozi di abbigliamento cosiddetto fast fashion, quindi sostanzialmente con tendenzialmente prodotti di medio-basso valore economico, dove quindi sono le librerie no, le librerie no, è un'novità, devo dire, ma anche la testimonianza che avete riportato fa vedere come in quel caso anche, come dire, dal punto di vista del ladro era sicuramente un ladro di nicchia in qualche maniera, non era sicuramente ladro di nicchia. Questo, no, noi ridiamo, questa è una definizione meravigliosa, il ladro di nicchia, un ladro di cultura. Chiaro, tra l'altro mi chiedevo anche quanto sia grande la libreria, perché ci fossero installate delle telecamere di sorveglianza, comunque, perché di solito nei piccoli negozi, no, mi corregga se sbaglio, Dugato, di solito non ci sono ancora telecamere di sorveglianza. Ma in realtà quello che abbiamo visto, almeno nella nostra ricerca, che appunto copriva moltissimi tipi di, in realtà appunto vendite di diverse dimensioni, quasi nella maggior parte di questi c'è effettivamente già un sistema di videosorveglianza. E un sistema di allarme, sì. Ormai una misura di, come dire, di prevenzione che viene quasi uniformemente utilizzata. Ovviamente poi ci sono delle misure più specifiche che invece vengono applicate soltanto in alcuni punti di vista più in qualche maniera pericolosi o considerati a rischio, e magari sono più anche sostenibili, diciamo così, economicamente da grandi aziende e grandi catene di franchising, come per esempio la presenza di cosiddetti doorman, cioè le guardie che sono non armate, che però stanno all'ingresso. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo da qui, e insomma questa cifra, 3,4 miliardi di possibili risparmi del settore, se ci fosse un mondo senza ladri, ovviamente un'utopia, ecco. Ripartiamo e chiamateci all'800 24 00 24. I funamboli. Allora siamo qui. Vorremmo capire, allora Marco Dugato ci ha detto anche i settori, ci sono anche delle notizie sulle città che sono più esposte a questo tipo di rischio, cioè furti nel dettaglio, nella grande o piccola distribuzione. Sì, allora, come diciamo così, tutti i fenomeni criminali, i fenomeni sociali in generale, ovviamente noi vediamo delle concentrazioni, nel senso che il problema non è diffuso in maniera uniforme. Noi abbiamo identificato, in particolar modo se ragioniamo a livello di provincia, quindi di area un po' più estesa, dei cluster, così li abbiamo chiamati, di province simili che in qualche maniera presentano alti livelli di problematiche legate. Per esempio c'è tutta la parte legata alla cosiddetta Via Padana, come l'abbiamo chiamata, quindi le province sostanzialmente dell'Emilia e della bassa Lombardia. Poi c'è tutta la parte legata invece alla bassa Toscana, quindi la cosiddetta Maremma, quindi da Grosseto, Livorno e l'Alto Lazio. Un altro cluster molto significativo è quello invece legato alla Puglia, quindi con le province soprattutto di Bari e Brindisi. È possibile individuare delle motivazioni per questo, capire perché queste zone siano privilegiate? Allora, quello che abbiamo visto è che queste zone sono anche caratterizzate poi dal tipo, diciamo così, di città che è prevalentemente colpito, cioè tendenzialmente sono zone dove non c'è la grande città, a parte forse il caso di Bari, un po' un'anomalia, ma di solito sono città dove mediamente il tessuto urbano è caratterizzato da centri medio-piccoli, meno densamente popolati rispetto ad altri, e in alcuni casi, come il caso appunto della Puglia, come ricordavamo, ma anche della Sicilia e della Sila, che sono gli altri due, diciamo, cluster che abbiamo individuato, c'è anche un problema banalmente di maggiore tasso di disoccupazione e quindi incidenza di difficoltà economiche, chiamiamo così, che ovviamente sappiamo che sono spesso collegate con fenomeni criminali. Sì, allora noi devo dire, è arrivato un messaggio, non so se il nostro libraio Luca Malini è ancora lì, non so se ci segue di solito, noi abbiamo la rubrica anche dove defurbizziamo le persone, quelle che raccontano quella volta in cui hanno fatto il furbi, una volta. Di solito è successo 30 o 40 anni prima. In genere dicono, 30 anni fa ho fatto questo, e noi li defurbizziamo. Anche quelli di 25 di solito dicono 30 anni fa. Esatto. Ecco, questo ragazzo, insomma, è stato, come ci ha scritto un'ascoltatrice, defurbizzato. Ecco. Forse dovremmo fare un appello a telefonarci più tardi per vedere se è pentito. Nel senso che è arrivato, ha riconsegnato il libro e vabbè, è stato defurbizzato così. Ma però io volevo chiedere a Malini, ma è frequente di ricevere dei furti anche lì in una libreria? Frequentissimo non è. Capita a volte, ma c'è sempre il dubbio, no, per una questione di magari disattenzione o di bisogno di adiacenze, perché i sistemi, però sì, dopo diventa difficilissimo andare, non è comunque una Non è frequente sicuramente. Non è un prodotto così in auge. Non è esatto. Già è difficile venderli i libri. Adesso. Cioè, se proprio devo rubare qualcosa, non mi butto su un Shakespeare. Cioè, ecco. Esatto, meglio un cappotto. Su Primo Levi. Esatto. Va bene, noi ringraziamo Luca Malini e Marco Dugato per averci dato queste informazioni. C'è da dire che molti chiamano sulla questione dell'ATAC e ci scrivono. Per esempio, l'ascoltatrice dice: ma che vuol dire se mi si incastra una sciarpa rischio di morire soffocata? Io non sono un tecnico, però lì è successo questo, non è scattato il sensore perché lo spessore del bracciolo della borsa era troppo sottile ed è grave, sempre cosa. Sulla famosa storia delle linee gialle da fare particolarmente attenzione, perché purtroppo se davvero i sensori non rilevano alcuni indumenti corporei o alcuni oggetti diventa veramente pericoloso. Ci scrive un altro ascoltatore, dice che a Tokyo ci sono nelle ore di punta soprattutto decine di addetti che controllano proprio la chiusura delle porte lì, quando proprio li spingono dentro. Comunque vediamo i nostri ascoltatori. C'è Guido da Viterbo che mi dicono essere una persona che lavora nel settore, giusto Guido? Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Grandissimi, vi adoro, vi ascolto tutti i giorni. Saremo Guido. Duri lo stesso. No, prego Guido. Dica, non mentre dica. Guida, no Guido? No, assolutamente no, scherziamo. Vabbè. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda quell'autista, perché la cosa mi sa tanto strana, per il semplice motivo che oggi ci sono delle normative per quanto riguarda i bus, quindi una porta non chiusa totalmente il bus non parte. Ora, se la cinta di questa borsa era talmente fina che ha fatto chiudere totalmente la porta, è strano che ha trascinato una persona, per il semplice motivo che nei finali di queste porte ci sono delle gomme, quindi al momento che l'abbia trascinata tutto. Sì, ho capito, però che l'abbia trascinata è sotto gli occhi di tutti purtroppo, quindi sarà rimasta attaccata non per la cinta della borsa, dice, per qualcos'altro, per il cappotto, non lo so, però l'ha trascinata, ecco. Strano perché nei finali delle porte ci sono delle gomme che consentono proprio. Invece non è successo. Lo so. Però cosa c'è? Che spesso e volentieri, più spesso che volentieri, noi abbiamo all'interno del bus praticamente dei specchietti retrovisori per vedere la gente che sale e che scende. Sì Guido, okay? Però è stato un attimo distratto perché l'avvocato ha spiegato che quello specchietto a 100 metri di distanza, visto che era in coda al convoglio, il tema è se con uno specchietto di quella grandezza si vede a 100 metri, sai, un autobus è lungo 10-12 metri, non è la stessa cosa. Quindi... Io credevo dire, siccome succede anche a noi, succedono queste cose anche a noi, però... Che succede? Che una persona che è scesa dal pullman praticamente, io poi non ho capito se questa persona è scesa oppure stava in piedi fuori del pullman. Ma è una metropolitana, Guido. Vabbè, niente, ci intendiamo un po' poco. È successo in una metropolitana, ma l'ha visto tutto il mondo. Mi sembrava abbastanza... Vabbè, Guido, però ci dice sul pullman. Metropolitana, 100 metri lunga. La ringraziamo comunque. Fabio da Modena. Sarà distratto. Si sarà distratto, va bene. Fabio, buongiorno. Fabio. Pronto. Fabio. Pronto, Fabio. pronto, come faceva Funari. C'è. Pronto, mi sentite? C'è. Benissimo. Sì, forte e chiaro. Sì, io non sento qui, voi. Qui terra, Fabio, qui terra. Passo. Fabio, io non mi sento. Va bene, dai, allora andiamo al traffico e poi dopo vediamo di mettere a punto il collegamento con Marte. Houston, abbiamo un problema. Dai. I funamboli. Finalmente le 9. Buongiorno Veronica. Sì, lo so, c'è anche quell'altri due. E vabbè, pazienza. Milan, ha ragione Veronica. Soltanto quelli di sinistra possono andare a fare le manifestazioni con i caschi integrali e i manganelli. Allora, abbiamo recuperato Houston. Fabio, buongiorno, da Modena. Eccomi, prima ti sentivo solo per radio. Ottimo. Buongiorno. Vai Fabio. Ecco. Buongiorno. Allora, niente, io intervenivo per, sì, per la, il macchinista di Roma, sì. Non voglio difendere nessuno perché ci mancherebbe, l'avvocato lui ce l'ha, io non faccio l'avvocato, sono un semplice autista, però per quanto riguarda i turni, sì. Che tu dicevi, ti do del tu, tanto sì, sei... Sì, ti... niente, per quanto riguarda i turni che sono lunghi, che tu dicevi che praticamente lui può mangiare dopo 6 ore, mm-hmm. Purtroppo io conosco le turnistiche. Noi abbiamo dei turni che vanno dalle 11 e finiscono alle 18, dalle 12 e finiscono alle 19, cioè praticamente sì, spezzano il pranzo. Ecco. Sì, praticamente negli orari che qualsiasi lavoratore alla mensa o ha il diritto, diciamo, quell'ora, quella mezz'ora di pausa per mangiare, cioè uh-huh. tipo da mezzogiorno alle 2, massimo alle 3, sì, sì, noi non ce l'abbiamo. Ah, ma quindi questo io come dire, accolgo questo tipo di problematica, no? non è che ho visto, per l'amor di Dio, cioè non so se quello che lui stava facendo, ho visto però il problema delle porte e ho visto che la signora saliva e scendeva, e quello si vede chiaramente, e questo lo fanno... Tutti i giorni. Sì, però Fabio, non diamole una colpa adesso di questa. È pericoloso mangiare mentre uno guida? Sì, sì, no, quello è certamente è pericoloso, anzi, e non va fatto. Io adesso non voglio né difenderlo né incolparlo, perché... Sì, lei ci ha avuto un atteggiamento dalle magiche che entrava, ma per carità, io vedo a Milano molte persone quando si affrettano, che non vogliono perdere la metropolitana perché se arriva dopo 2 minuti è un disastro, che addirittura si chiudono le porte e infilano le braccia per dire no, la devo prendere, rimangono incastrati finché non le aprono. Io non lo farei mai. Perché metti la volta che invece non funziona qualcosa, no, parte. Chi magari entra perché all'inizio pensa che ci sia spazio sufficiente, poi dice oddio è troppo piena, soffoco e esce. Cioè, a volte si vedono degli atteggiamenti un po' così. Sì, infatti adesso non arriverei a incolpare la persona per il fatto che è entrata e uscita adesso con tutto quello che le è capitato. Però abbiamo un grande esperto qui, tra l'altro, di affollamento metropolitano. Non parlatemi di metropolitana, anche se stamattina, essendo qui festa Sant'Ambrogio, Milano era la situazione ideale. Vuota. Per prendere la metro avanti e indietro. Bellissimo, mi sono emozionato stamattina. C'era l'hai presa 4 volte, dalle 6 che giri in metropolitana. Persone più educate, posti a sedere, bellissimo. Però mi spiace iniziare stamattina, chiederei a Peter Bescapè se è un requiem. Urca, che succede? Mi dispiace dare questa notizia. No. Insomma, anche un lutto. No. Oh. Non è mai bello dare queste notizie, ma alcuni di voi forse già lo sapranno. Che è successo? Signori... Signore, no, è morto Campo Progressista. Isapia ha mollato. No. Tutti quelli che speravano in Campo Progressista vivranno questo momento di lutto. Non ha retto lo stress. Tutti confluiti in Liberi e Uguali. Che Laura Boldrini in Liberi e Uguali. Va bene, ragazzi, sono notizie che vanno date, siamo una radio di informazione e... Ma poi c'è stato il gran ritorno della Boschi questi giorni. Beh, a me piace la Boschi. Politicamente mi piace la Boschi. Devo dire una cosa, è verità e non ridete. Dici. Ieri mi sono addormentato su Porta a Porta la Boschi. Ho sognato che dovevo moderare un convegno con Maria Elena Boschi, che era lì, che mi parlava. Diceva allora parliamo di questo, parliamo di quest'altro. Perché tutto ci qui. Stai precisando che ti parlava? No, perché se ti ho detto. Se perché ti dicevo ho sognato Marielena Boschi, iniziavi a fare battutacce. Io invece dico... io certo che no, ma sapevo perfettamente che gli ascoltatori ti avrebbero ricoperto di insinuazioni. No. Io dico che a me piace politicamente Marielena Boschi, perché è uno dei pochi politici che dà l'idea di non essere attaccato al potere e di occuparsi solo dei cittadini. Ecco, una vero, politica questo, di servizio. Io vorrei tutti i politici così come lei. Brava Marielena Boschi. Quando è entrato Guido Baldo? Non lo so. Tutti li voglio così. Persone Alfano che non si candida più. Non si candida. Bravo. Ma su questa cosa di Alfano hai lasciato cadere così in sordina, Leo? Ma l'ho vista stamattina. Io ieri non ho avuto modo di seguire. Ma tra l'altro Alfano ha dichiarato quindi da marzo mi troverò un lavoro. Il che vuol dire che la politica... Vabbè, andiamo avanti. Non è. Insomma, l'ha detto Alfano. Oh, non lo dico. Sei mica. Polemico contro Alfano. È una polemica sterile. Contro un politico che ha un grande riscontro elettorale. Avanti. Oggi a Milano è Sant'Ambrogio. Molti milanesi sono partiti, ma già da ieri in giro c'erano tante facce da ponte. La faccia da ponte la vedi subito, c'è un guizzo negli occhi. La piega della bocca si solleva impercettibilmente verso l'alto e accenna un sorriso. Il naso si tende per annusare l'aria da ponte e in metropolitana c'è meno rabbia del solito. È l'aria da ponte. Il grande pregio del ponte è che ci toglie dalla routine della vita quotidiana, che a volte ci sembra un po' finta, ripetitiva. È finto svegliarsi di mattina in una casa che non è proprio la tua casa, perché è della banca, che te l'ha data con un mutuo, che però la banca è uno strano organismo dove se lasci i tuoi soldi praticamente non ti danno interessi, invece se i soldi li chiedi e devi pagare interessi, niente male. Infatti a volte le banche hanno i nomi dei santi, perché i clienti a volte sono dei martiri. Poi è finto fare colazione con dei biscotti che non sono proprio biscotti, sono degli strani intrugli ricchi di fibra, il cui solo obiettivo è favorire il transito intestinale. Nel XXI secolo la felicità si raggiunge solo sulla tazza del water. Poi lui e lei, marito e moglie, vanno al lavoro su strade perennemente intasate, tenendo sempre sott'occhio il telefonino, che non è un telefonino, una protesi contro la solitudine. C'è chi ne ha tre: uno per il lavoro, uno per la famiglia e uno per chiamarsi da solo se nessuno ti sta cercando. E poi arrivano al lavoro, ma a volte non è proprio un lavoro, è più uno stage, dipende da come lo dici. Anche se comunque lo si dica, quasi sempre non è retribuito, o retribuito pochissimo. Più che stage o stage dovrebbe chiamarsi a gratis. Mi hanno preso in un'azienda per un a gratis. Poi torno a casa e per cena si mettono intorno a un tavolo, ma non è un tavolo vero, di legno, è un materiale che si chiama medio denso, multistrato. Se metti dei tarli su quel tavolo, muoiono di fame. Poi guardano un po' di TV e alla fine vanno a letto e sognano di staccare e andare magari a farsi un paio di giorni in un centro benessere, alle terme che ci sono ormai dappertutto, anche qui a Milano. Così ti si aprono tutti i pori della pelle e lo smog può entrare meglio. Ma a dicembre c'è la neve per il ponte dell'Immacolata e allora se si può vale la pena di salire lassù in alto a respirare. Poi ricominceranno le code in tangenziali, i problemi sul lavoro, le tensioni in famiglia, ma in montagna finalmente non c'è più la ressa sui vagoni, in metropolitana, sui mezzi pubblici, sulle scale mobili, sostituita comunque dalle code per lo ski lift. Buon ponte a tutti. Oh, evviva il ponte, evviva il ponte. Che è sta... Infatti non c'è questa certa... cosa che ci getta nello sconforto nel era un momento di allegria, buon ponte. Ah, è un O mio bella Madonnina, ma con un intro un po'. Ecco, potresti cantare questa, Veronica. Raffreddata anche. Ah, adesso prendi la scusa. Da Ceda sarebbe terribile. Non la conosci tutta O mio bella Madonnina? No, purtroppo... Leonardo la conosce, adesso quando arriva il ritornello ti fa. Solo il ritornello conosco, non essendo io originario di Milano. Io non sono di Milano, sono della Custra, del Lago di Garda, della Repubblica Sociale Lisa, italiana, certo. Salò. Il fascio Madonnina che te brille de lontan. Io indifferita poi. Tutta bella e piccinina. Tutta d'oro e piccinina, mamma. Che domina Milan. Vabbè, vi lasciamo in questa prima ora di Funamboli con la canzone di Milano e Sant'Ambrose. Sei single e cerchi un piatto sempre pronto da rovesciare senza pretese nello stomaco? Allora acquista il tonno caporetto, il tonno che non richiede l'uso di grissini perché è già a pezzi, nella scatola, e proviene da tonni di esperienza. Tonno caporetto è il tonno per single, adatto a ogni occasione. Un sandwich con pane duro o una cena da solo davanti alla TV, senza nessuno. Allora non pensare al passato che non ritorna. Non pensare agli amori finiti e consolati col tonno caporetto, il tonno del single che non ha pretese, ma solo rimpianti. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. I Funamboli. Tanto di cappello all'avvocato del macchinista, ma è inutile fare confronti con paesi in cui la sicurezza funziona. Il macchinista dovrebbe essere lì proprio per questi casi. Ciao Veronica, spiegami una cosa, tu che sei tanto brava. Per quale motivo viene condannata la manifestazione di Forza Nuova e viene considerata violenta, ma lo è stato soltanto verbalmente. Invece quelli dei centri sociali non vengono mai condannati e finisce sempre con un ma sì, dai, sono ragazzi. Scusate, ma siamo sicuri l'autista della metropolitana ci veda bene? Non lo sappiamo, spero che ci veda bene. Io condanno anche quelli dei centri sociali, giusto perché tutti si sa. Condannano anche quelli dei centri sociali, che tanto è sempre così, è il benaltrismo, e allora quello e allora quell'altro. Uno condanna tutte quelle che sono iniziative violente. Qui quello che si contesta è il fatto che Forza Nuova si rifaccia direttamente al fascismo e lo faccia con certi modi e degli atteggiamenti di minaccia, minatori, questo è quanto. Comunque, alle 10:09 minuti siamo qui alla seconda ora dei Funamboli. Ah, dobbiamo annunciare che domani ci sarà un meglio di ci prendiamo. Non è che ci prendiamo una giornata di riposo, sì, non siamo qua fisicamente, ma saremo in onda, eh. Saremo in onda con il meglio di. Beh, tu sei a Sciare, giusto? No, a Chamonix. No, a Chamonix. No, tu a Champoluc. Io a Champoluc. Tu Champoluc. Nella regione dello Champagne, Veronica, prendi. Caro, io vado ma a fare una... dirlo, non devi dirlo, soprattutto con un tono di colpa. No, non era di colpa, no, volevo fare un po' quella che andava a fare la cronista e a verificare sul campo com'era la situazione, ma mi risparmio la... Vabbè. Manera, sei grande, l'unico su Radio 24 insieme a Giannino. Manera come Giannino, sono pelati uguali effettivamente. Questa per è la quello cosa che io non posso comune. Andare in vacanza a Champoluc. Shampoo. Luke l'ha detta. Shampoo. Dai, una volta, dai, Sant'Ambrogio. Datemi. Andrea da Roma, buongiorno. Mamma Andrea. Mia, che pesante. Buongiorno. Polemica sterile. Sì, Andrea. Mi sentite? Benissimo, Andrea. Sì, io volevo. Sono un autista a Roma. Sì. Io volevo essere un po' provocatorio, nel senso che questo ragazzo avrà dovuto affrontare delle spese per mettersi l'avvocato, essere sospeso dal servizio probabilmente senza paga. Però io quello che voglio dire è che la responsabilità andrebbe proporzionata al salario, cioè allo stipendio. La responsabilità proporzionata al salario? Beh, se, dipende, se è una responsabilità penale, no. No, no, nel senso che gli amministrativi praticamente hanno il contratto da autofermieri. Sì. E prendono gli stessi soldi e prendo io che faccio l'autista. Sì. Però è normale che se un amministrativo sbaglia un foglio o le cade una penna, non succede niente. Sì, se sbaglio io faccio una strage. Capito? Ma certo. Allora anche i medici di pronto soccorso, cioè pure le guardie mediche, come fai a misurare la responsabilità? Un medico che ha la vita di una persona ogni volta che opera dovrebbe guadagnare milione di euro al mese. Ma io non dico 1 milione di euro. No, ma faccio un'evidente provocazione, però per dire. Allora, il pilota d'aereo che ha la responsabilità di 500 persone ogni volta che pilota, quanto dovrebbe guadagnare? Cioè, per carità, no, ma il discorso ha una sua validità, però non so quanto possa essere applicabile. Il fatto è che sono tanti lavori quelli di grande responsabilità che magari non sono retribuiti, diciamo, enormemente. Sì, questo sì. No, sono di enorme responsabilità rispetto a ciò che ha a che fare con l'attenzione anche, no? Il non distrarsi perché si mettono a rischio. Poi non necessariamente questo prevede, no, delle qualifiche... Sì. Cioè non c'è un automatismo. Non c'è un automatismo. Comunque la ringraziamo, Andrea, per questa testimonianza. Autista ATAC, immagino, visto che è autista di autobus a Roma. È il momento però di una persona che, altro che autisti, invece ha a che fare con dei veri campioni del mondo. Guardate, questa persona l'ha scovata il nostro Lorenzo Nespoli. È una persona che ci affascina tantissimo, perché è il funambolo del giorno. Nome Francesco. Cognome Liberto. Età 81 anni. È l'inventore delle calzature per i piloti da corsa. Le sue creazioni, fatte a mano, sono state indossate dai più grandi campioni di Formula 1 come Niki Lauda. L'UNESCO lo ha proclamato tesoro umano vivente. Non so se ci rendiamo conto, Allora, mi dicono sia un po' emozionato, ma non deve esserlo perché siamo tra amici. Lui è conosciuto anche come Ciccio da Cefalù. Buongiorno Francesco, eccoci qui. Buongiorno amico mio, grazie della vostra chiamata. Grazie. Ma grazie a lei. Insomma, ma davvero tutti questi campioni hanno indossato, ne abbiamo citato uno, Niki Lauda, no? Chi non lo conosce, ma Niki Lauda è il campione del mondo nel 77 con le mie scarpe sulla 312 T2, esattamente. E poi altri? Tutti campioni. Dunque, io sono stato chiamato dalla Ferrari nel 75, che mi hanno dato tutte e tre paio di scarpe, un 41, un 42, un 43. I primi ufficialmente richiesti dall'azienda Ferrari erano per Reutemann e Niki Lauda. Io mi ho dato le scarpe, Reutemann è risultato 43, Niki Lauda 41, e la storia con Niki Lauda è continuata anche quando ha lasciato la Ferrari e hanno finito la Brabham Alfa Romeo. Ma è incredibile, ma lì non so, le leggo da Sebastian Vettel a Mario Andretti, Didier Pironi, René Arnoux, tutti li ha vestiti nelle scarpe. Ma come ha cominciato Francesco a fare delle scarpe proprio per i piloti? Signora, le dico una cosa, io sono solo figlio delle Madonie, sono Cefalù, no? Ma è il piede delle Madonie. A Cefalù c'era il Giollotel, l'Hotel Santa Lucia e l'Alci Alberghi, che ospitavano e ospitano sempre quando vengono le grandi organizzazioni per organizzazioni sportive di macchine. Dunque io ero affascinato dal rumore delle macchine e di tutto, anche dell'odore di origine che fanno i motori quando corrono. Questa storia è nata per caso, perché io amavo i piloti, volevo avere contatti, e sono andato all'Hotel Santa Lucia dove dormivano Jackie Russo e Ignazio Giunti e Danny Carli. Questi erano piloti dell'Alfa Romeo all'epoca, nel 68. Sì. Dunque, allora siamo andati a mangiare una pizza. Ignazio Giunti, il quale attualmente io da molto tempo la famiglia lo sa, l'ho dichiarato direttore del mio commercio qua, direttore generale mio. Sì. Ignazio Giunti mi ha chiesto: sai, quando si conosce, tu cosa fai, cosa non fai? E io ho risposto: sono calzolaio e faccio scappi su misura. Io facevo ortopedia e scappi. E Ignazio mi ha chiesto un paio di scappi. Da calzolaio su misura. Che caratteristica deve avere una scarpa da pilota? Cos'è? Gommata sotto? No, assolutamente. Le mie scarpe attualmente io continuo sempre su quadro. Io faccio le scarpe un po' all'antica. Gommata, non ho questo riscontro tecnico per la gomma. Sarà più soffice, più. Però tutti i campioni hanno guidato, c'è del cuoio e un antiscivolo vibra. Cos'è? Tipo un mocassino di pelle, no? Non è un mocassino, è un mezzo polacchino fatto particolare. Io l'ho pensato, aperto davanti, di modo che il pilota slacciare e mettersi le scarpe e togliersi. Siccome presupponevo e presuppongo che è così, i piedi possono gonfiare durante la guida. Ah, certo. Quando scendo, naturalmente posso slacciare facilmente. Cercare di dare il massimo comfort a queste scarpe per i piloti che conducono questa. E sono fatte tutte su misura, cioè nel senso perché... Questo voglio sapere Ciccio, ma sono anche diverse l'una dall'altra, nel senso che uno le fa un po' proprio per la persona oppure sono tutte quanti uguali? No, non sono uguali signora, sono personalizzate perché ognuno ha un suo piede. Per esempio c'è Ricky Efford che nel 68 lui aveva un piede 42 e mezzo e uno 44 e mezzo. Addirittura, due numeri di differenza. Accidente, due numeri. No, lui ha avuto un incidente. Non aveva l'alluce per il sinistro. Ha avuto un incidente a casa quando era adolescente. Quando mi chiese le scarpe davanti all'Hotel Santa Lucia, dove c'era la siege, c'era tutte le Porsche dormivano là, compresi i piloti. E praticamente mi ha chiesto le scarpe, io ero obbligato di lavoro, ho detto senti Michele, si è scalzato, mi ha mosciato i piedi e ho notato che mancava questa l'alluce. E Vicky mi ha detto Ciccio, io non posso correre, non posso vincere, non posso fare niente. Ho forse realizzato le scarpe, ho lavorato moltissimo perché ho dovuto preparare questa forma di vestire all'altra. Guardi Ciccio, che arriva, ci arriva un messaggio, un ascoltatore, visto che siamo in diretta, grandissime a dare spazio a Ciccio da Cefalù, ma la sensazione è che lei nel mondo dei motori sia un po' una leggenda, adesso magari non lo vuole vuole dire per sminuirsi, ma... No, io sono, guardi, le dico una cosa signore, io sono una persona che vola basso. Vola leggenda sì, vola basso. Ma l'UNESCO è vero che l'ha proclamata sì, sono dal 1900 insomma quattro, io sono arrivato 2 anni prima alla cattedrale e si è scritto all'UNESCO. Forse l'anno prossimo lo vengo a trovare con Vergassola. No, siamo, ma è fantastico, è fantastico. Ma poi la Porsche ha fatto un documentario su di lei. Volevo dire, la leggenda nasce proprio di là, perché tutti i film, i filmati che ha fatto la Porsche, Legend, Ciccio Legend, Ciccio ora Legend. Vediamo, mi scrivono. Ciccio Legend. Cara leggenda, mi scrivono tutti. Ma qual è il campione? Il piede più bello da vestire. Esatto, il piede più bello da vestire o il campione a cui sei più affezionato. Che le ha dato più soddisfazione, sì. Quello con cui è legato, dai. Dunque, io amo tutti i campioni, però una persona particolare, io amo Vicky Elford, che è campione, che da 50 anni guida con le mie scarpe, ma lo amo oltre per le sue grandissime capacità professionali, perché amo Vaccarella, amo Androè, amo tutti, insomma. Però questo Vicky Elford è come una piuma di un cardellino, non pesa un pelo di paglia, sempre disponibile, autografi, eccetera. Ha un bel rapporto umano. Se lei va su Facebook stamattina, c'è una pubblicazione di Vicky Elford dove ci sono io con lui, che è il Panormus, che ha fatto una brochure per l'anno 21. Con l'anno 21 facciamo 50 anni di amicizia. La sto vedendo, bellissima. Vicky Elford, vabbè, è questo. Se uno va sul profilo persona... Facebook di Vicky Elford, vede la scarpa, che stavo già andando a vedere per capire se va bene per me. L'ha visto i piedi in gesso, l'avete visto? No, aspetti. Nella fotografia della brochure c'è i piedi in gesso, che c'è l'alluce che manca. Ah, è giusto, perché prima bisogna fare il calco in gesso del piede e poi fare la scarpa. Fantastico. Beh, ma queste scarpe sono molto fashion, uno se le può mettere anche per andare in giro, Ciccio, glielo dico. Perché Veronica, la nostra Veronica cerca sempre un regalino, qualcosa. Io sono disponibile. Io lo so che la tipica gentilezza siciliana poi dopo lo fa veramente. Troppo buono, Ciccio, troppo buono. Francesco, ma lei ha mai guidato invece, mai salito su una macchina da corsa? Ha avuto questa esperienza? E l'ha anche guidata? No, ho paura, no. Ma invece no, una cosa ci interessa per concludere, sì. Francesco, come è cambiato un po' lo stivale o la calzatura negli anni? Perché adesso c'è una tecnologia anche nelle macchine, nei motori, straordinaria. Invece la calzatura rimane più o meno sempre simile? No, rimane la calzatura. La mia calzatura non ha mai cambiato modello. Sono nati due. Sono due modelli, uno più bassino e uno più altino. E io ho cambiato, ho intersecato i colori, però il modello mai, il modello è imposto, tant'è vero che gli amici Franco Cheli, che era direttore, che era professore a Brera, che insegnava scenografia, ha organizzato una mostra che sarà fatta al CEPRO, che si chiamava Ciccio e gli amici di Brera, perché a Brera se ne sono accorti che queste scarpe non sono mai cambiate di modello. Che bello, quando una tradizione funziona sì, e soprattutto ha vestito tutti i campioni del mondo, perché dobbiamo cambiare? No, bisogna cambiare i colori, i materiali ho usato sempre i migliori amianti. Attualmente l'amianto, sapete che era cancerogeno, no? Sì. Attualmente le mie scarpe, mancato che non sono omologate, sono foderati di amianto non cancerogeno, ultime produzioni sempre del DuPont, e quindi le mie scarpe sono superiori, mi perdoni la mia presuntuosità, di quelle che guidano in Formula 1 che sono omologate. Io non le ho omologate perché pensavo che con la dismissione da Tagliaflore come campionato mondiale io non avrei lavorato più, invece non è così. Dopo la Tagliaflore cominciarono a piovere delle ordinazioni e quindi ancora oggi continua. Infatti oggi Francesco, noi la ringraziamo. Complimenti, veramente, è diventato international. Grande, Ciccio da Cefalù International. Grande Ciccio da Cefalù. Francesco Liberto, 81 anni, portati benissimo. Il calzolaio, insomma, mastro calzolaio di tutta la Formula 1. Ma siete andati a vedere solo le scarpe? Sono bellissime. Adesso durante il traffico andiamo. Adesso poi c'è. Tu te le potresti anche mettere, secondo me sono meglio delle tue. Smettila, traffico. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... I funamboli. Allora, signori, sono le 10:24 minuti. E i funamboli continua sempre in diretta qui su Radio 24. Ricordate che se volete. Amico italiano, hai lamentele inutili? Problemi che non troveranno mai una soluzione? Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente. Oggi non ne ho per il momento di polemiche niente, sterili. Niente, non te ne è venuto in mente nessuno. No, però adesso lascia che scavi un attimo e... Andiamo, che... è sempre bello sentire l'inno di Mameli e Novaro. Ma non vogliamo Mameli e Novaro. Polemizzare sul fatto che l'Immacolata cada di venerdì e non di giovedì per non allunghi il ponte? Beh, in realtà qua a Milano, ripeto, è festa, quindi... Io polemizzo per tutta Italia. Polemizzi per tutta Italia. No, sì. No, c'era una polemica sterile però di mio cugino, non proprio mia, però la faccio un po' quando mia. Quando si dice di mio cugino, no, la faccio subito, un po' mia. Di sì, quando sei alla cassa del supermercato e c'è quello che è lento nell'imbustare e tu arrivi dopo, per cui ti si accumula tutta la roba. Però lì e non tu dici è... ma spostati, ma non imbusta è... ma imbusta veloce, non che è colpa sua, il problema è delle buste che non si aprono facilmente. Io quello che odio è quando uno ha un prodotto che non viene riconosciuto dal lettore di codice a barre, che allora bisogna chiamare l'addetto alla corsia che va a vedere dov'è il prodotto e quanto costa. Antonio in cassa, Antonio in cassa, grazie. Devo dirti che però la polemica di tuo cugino mi risuona dentro. Però sono arrivate tante a funamboli@radio24.it. Per esempio Filippo c'è scritto: la gente che non sa giocare bene a Monopoli o Risico, amicizie rovinate e amori finiti. Questa è una polemica abbastanza... Scusate, stessa. Anche Trivial dove lo vogliamo mettere? Sì, più o meno. Ma come ve la cavate col Trivial? Oppure Manere Milan? Bene? Io male. Questa è una polemica veramente sterile. Interrompere, cancellare dai palinsesti tutte le programmazioni stile Gomorra, Suburra. Tutte. Questa è molto sterile. Dice che grande i cattivi che... esempi. Ma direi no, che questa ha una grossa sterilità in sé. Esatto. Congenita. Senti proprio. Questa poi, molto da Radio 24. Molto bene i titoli petroliferi. Molto bene per chi? Per tre o quattro persone forse. Questa è molto sterile. Questa è buona e devo dire l'hai anche interpretata bene. Ma molto bene per chi? Questa basta, la provo, basta, la provo basta. Questa è una polemica sterile che approvo. No, vabbè dai. Comunque c'è Andrea che ci chiama da Treviso. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Volevo dirvi che queste sono cose dell'altro mondo. Questo macchinista, soprattutto i macchinisti, sono trattati con i guanti rispetto a tanti altri operai in Italia. Questi qua si permettono anche di fare queste cavolate, pensano di lavorare sulle macchine, le caramelle, non so, hanno a che fare con gente, sono trattati benissimo, io penso, rispetto a altre categorie, altri lavoratori. Ma adesso questo non lo... loro si lamentano un po' sui rinnovi contrattuali. 59 anni vanno in prepensionamento, vediamo anche i macchinisti delle ferrovie, vanno in Portogallo, così hanno il doppio anche pensione. Vabbè, e quello qua, è legale, no? L'abbiamo già parlato, però vabbè. Portogallo. Beh, ma questi qua sono un altro mondo, dovrebbero essere veramente sentenziati come criminali questi altri. Addirittura, no, dai, no, io penso di sì, rovinano la gente così facilmente, anche perché non è si ammassano di lavoro. Saranno un po' stressati, ma rispetto a altri lavori. Andrea, io il macchinista a 6 ore in una, al buio, perché a Milano, per esempio, la metropolitana è quasi tutta al buio, in galleria. No, io non lo, beh, non lo vedo. Sì, non lo vedo come un lavoro, insomma, è un lavoro anche stressante, no? Che genera... Il criminale mi sembra un po' tanto, esatto. Diciamo. Vabbè, comunque il nostro Andrea da Treviso è così. C'erano altre polemiche sterili, guarda che sono arrivate via messa. E la polemica sterile, i parcheggi riservati ai corpi consolari a Milano, ecco, un ascoltatore. No. Beh, in generale, togliamo a Milano i parcheggi riservati ai corpi consolari, sì, perché a volte voi non vi sentite il corpo consolare. Federica ci ha scritto questa mail, No, è giusto. No, certo, figurati con le ambasciate che ci sono a Roma, poi figurati. No. Qui è tutto un parcheggio giallo del corpo consolare. No, cioè, ma ci tanto ci hanno dato una mail pazienza di 40 righe, non capisco una miriade di posti riservati sotto casa, ufficio di queste persone. E se ti azzardi a parcheggiare sui posti gialli, cicci, devono sempre essere liberi. Abiterà sicuramente Ale, ti compenetri troppo nelle polemiche altrui, sento che ogni polemica ti sale come fosse tua. Tra l'altro in quei posti si hanno subito la multa, ci vuole veramente veramente un attimo a multarti. Anche qui a Milano ci sono tutte quelle per la guardia di finanza, eccetera, eccetera. Va bene. Comunque, insomma, se volete fare una polemica sterile, ora arrivano le informazioni sulla borsa. Io credo che abbia una funzione catartica questa rubrica, Leo. Abbiamo fatto una cosa molto buona. Molto giusta, una cosa buona e giusta. Sì. Se volete chiamarci 800 24 00 24, fare la vostra polemica sterile. Che l'importante è che sia sterile. Tu, Veronica, però non ce ne dici molte. Sai, sono una ragazza poco polemica, lo sai che sono abbastanza pacifica, accomodante. Ah sì? Andiamo alla borsa, va. Che... I funamboli. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Io volevo semplicemente dire che il Duce è stato ucciso a Como dai comaschi partigiani. Ciao Milan! Cara dolcissima Veronica, atteggiamenti minatori sono deplorevoli sia a sinistra sia a destra. Umanera Milan e Gentili, domani buffa e festa, bene bene, la piove tutto il giorno e bellezza. Grandi, grandi. It was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. Allora, che cattiveria. È come se che fosse venerdì. Ma c'è anche chi potrebbe espatriare. Non l'avete valutato. Alle 10:36 minuti arriva una richiesta personale, siccome una cara amica, la mia amica Chiara, che vorrebbe che tu, caro Manera, rifacessi, ovviamente si sa con quale personaggio, l'intervista, la telefonata di Andrea da Treviso, che ci ha detto che insomma criminali anche quei no esagerati, ma lo faccio dopo. Allora... lo faccio alla fine, cara che Chiara. Figura che ho fatto, no, non lo dobbiamo anticipare. Che figura no, perché non lo sapevo, chiedo scusa. Battista da Cavaglione arriva Battista, dopo, non capisci? Ah, pensavo che fosse intervenuto via telefono alle 10:20 più o meno. Dei criminali, quei scusate che... c'è una polemica sterile che non posso non leggere. Leggi. Le informazioni del traffico durante il telegiornale, ma se sei a casa cosa te ne frega delle code a Barberino? Ma tu sai Veronica che qui a Radio 24 io lo dico da ascoltatore, le polemiche sul traffico sono una cosa storica, tanti conduttori si sono sempre lamentati del traffico. C'è un'altra polemica sterile però, c'è un'ascoltatrice fa una polemica sterile sui sedili del tram Sirietto a Milano, che è un tram progettati da chi non è mai salito su un tram. Ho letto, ma che problema ha questo tram sirietto? Non ho mai preso il sirietto. Io ho trovato la mia polemica sterile per i nuovi sedili della metropolitana. Li hanno fatti apposta quelli bombati, per farti rimanere seduto poco, perché sono molto scomodi. Vero. E siccome questo è veramente fastidioso, sono tipo una gobba di cammello. Ma scusatemi, ma voi due vi fate i pomeriggi insieme a parlare delle polemiche sterili? Adesso cito una mia amica che si chiama Cristina Rigoldi, che era in metropolitana ieri e ha assistito a questa scena tra due signore che si volevano sedere, c'era un solo posto e tutte e due hanno detto io sono anziana, e l'altra ha detto ma anch'io sono anziana, e l'altra ha risposto sì ma io sono anche vedova. E questa cosa insomma, era una battaglia tra chi stava peggio. Attenzione, c'è un'altra polemica sterile di Stefano, sono le piazzole di carico e scarico perennemente occupate da furbacchioni che passano del tutto impuniti e costringono i corrieri a posteggiare ad minchiam e prendere pure le multe. E va bene. L'altra polemica sterile, Stefano, non la leggo. Perché? No, dico, ma adesso cos'è? Non essere libero. Però. No, aspetta, perché adesso l'ho cancellata. Credo non essere libero di farmi una canna il sabato sera. In realtà credo che sei hai libero. Hai creato la suspense, hai fatto tutto da solo. Se già dici così vuol dire che te ne fai parecchie tutti i giorni. Esatto, il sabato sera però no. Va bene. Allora c'è un ascoltatore, mi sono perso la schermata, ma eccolo qua. Claudio da Roma. Brava, chi è? Claudio da Roma, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Sì. Allora, volevo evidenziare una polemica sterile. C'è un ritorno d'audio, sento. Vabbè, vabbè, comunque... No, no, tutto bene. Comunque sia, in questo, diciamo, mondo di compravendite online, ci si imbatte, diciamo, in operatori di vario genere. Nel caso specifico, posso fare anche il nome? Ma non lo so, veda un po'. Veda, no, faccio. Come un grosso player di compravendite. Sì. A un certo punto io avevo fatto degli ordini e chiedevo un'informazione particolare su questo monitor. Sì. Monitor. E a un certo punto mi risponde prima una ragazza dalla Romania. Allora a un certo punto gli dico se potevo dargli il codice di questo prodotto. A un certo punto gli dico, io inizio con Hotel Palermo, per Palermo e poi il codice numerico. Sì. E non capiva. A un certo punto dice non lo trovo. Dice non lo trovo il prodotto. Mi puoi ripetere meglio? Hotel Palermo 1525 per esempio. Sì. 45. E chi allora cercava? A un certo punto, siccome non individuava il prodotto, gli dico, mi dici che cosa ha scritto? Hotel dice, Palermo. Come gli ha detto lei, no? Hotel Palermo. Questo per dire. Questo allora, per la polemica dire sterile con chi non capisce ai call center, perché sono stranieri. Sul fatto che ci siano dei call center, stranieri, sì, che delocalizzano e che quindi uno sta mezz'ora al telefono. La polemica sterile. C'è e anche, si ripete senti la cosa questa, da capo. La polemica sterile è il succo che finisce dopo 2 secondi nelle gomme da masticare che diventano di ferro. Questa è veramente questa sterile. Questa è veramente... Sì, no, ma questa è una polemica molto buona però. Vabbè, dai. Io darei voto 8 a questa voto polemica 8? Sterile. Sì. Senti. Va bene. Ma è il momento di recuperare una vecchia rubrica che abbiamo un po' abbandonato e che vogliamo rispolverare con questa fantastica sigla che è di non Prince. Muoverti, ma non muoverti, Prince. Sta fermo. Eccolo che balla. Senti questa versione di Purple Rain, perché sono i nostri ascoltatori all'estero, i nostri ascoltatori che chiamiamo e che ci ascoltano da tutto il mondo, come fa Francesco. Ciao. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, come state? Scusa, è che la sigla mi prende un po', ma tu di Francesco, pure. Francesco, tu parla mentre Milan si agita e si dimena. Sento un tono pacato, devi essere in un posto che ti concilia col mondo, la serenità. Dove sei? Ma insomma, in questo momento non so quanto concili, sono in Inghilterra, vi chiamo da un'ora da Londra, diciamo. Quindi dove? Qui i toni sono soffusi. Vi chiamo da Bath, Bath è una città... Bath, sì, che tutti conoscono un po' per le terme romane. È una città un'ora da Londra, molto carina. Dove... E che ci fai lì? È molto da romanzo inglese dell'Ottocento. Sì, andavo sì, a fare sì, delle cure a Bath. Sì, le vecchie terme. No, esatto. Mi sono trasferito qui molti anni fa con mia moglie, che è inglese. E poi dopo siamo ritornati in Italia dopo circa 6 anni in cui vivevamo, lavoravamo qui e ci siamo trasferiti un anno in Italia perché io avevo voglia di ritornare, eccetera. Poi dopo un anno in Italia ormai mi ero, diciamo, riandata via. E quindi ho avuto, e alla fine sì, poi abbiamo fatto ritorno alla base qui. Io sono fortunato perché comunque sia lavoro da casa, quindi mi occupo di un computer, quindi riesco a conciliare un po' il tutto, sì. E cioè dici, riesco a sopportare lì? Di vivere qui, ecco. Allora, riesco a sopportare di vivere qui, no, allora, una cosa vale l'altra, no? Facciamo un bel mucchietto di tutti i luoghi comuni possibili su Bath e sull'Inghilterra, no. Vai. Allora, io ho avuto la fortuna di vivere con la mia famiglia, con mia moglie e le bambine in altre parti in Europa, anche in Spagna, eccetera. Posso dire che veramente... un po' tutto il mondo è paese, nel senso che dove vai devi sentirti bene e stai bene dove stai bene con te stesso, fai delle cose che ti piacciono, hai degli amici, eccetera. Poi chiaramente da italiano ti mancano quelle cose nostre, classiche, qui non voglio andare sul... Vai sui luoghi comuni, vai sui luoghi comuni! Sono di Roma. Quindi il luogo classico è il cappuccino, il cornetto e la mattina. Ma tu entra in un bar di Bath. Sei di Roma, ma hai smarrito tutto l'accento, Francesco. Ma se poi dopo andiamo avanti con la conversazione lo recupero tutto. Tu fai così domani, entra sono in un bar su Radio di Bath. 24, quindi devo cercare di... Io poi guarda, sono di Roma, io sono di Roma, perché sono di Roma Trastevere. Chi conosce Roma sa che Trastevere è proprio cuore di Roma. Sei trasteverino. Sì. Comunque in Inghilterra si vive, sai, stavo pensando quando mi stavate chiedendo questa cosa, In Inghilterra secondo me, come in altre parti d'Europa, si vive meglio dal punto di vista dei rapporti con la pubblica amministrazione, le banche, tutto quello che ha a che fare, diciamo, con la vita pratica. Dal punto di vista umano poi sicuramente invece viveremo meglio nei paesi chiaramente nostri. Sopperisci con delle gran birre, era la mancanza Sì, devi saper conciliare un po' il tutto, perché un buon bicchiere di vino rosso sicuramente, però anche una birra una volta. Secondo me, sai, la misura un po' su tutto l'equilibrio, però io ho la fortuna poi di venire ogni tanto in Italia, a Roma, quindi per lavoro, per famiglia, a per tirare amici. Una boccata d'aria. Sì, sicuramente. Tra l'altro, quindi dobbiamo dire una cosa, che Francesco era terrorizzato poco prima di intervenire, perché ha detto, oh, mi raccomando, non scambiatemi, non sono uno da deformizzare, io non ho fatto niente, no, sicuramente avrò anche io qualche scheletro nell'armadio, però sai, le cose classiche. Non vuoi fare due rubriche in uno, sputarla al volo? No, perché guarda, no. ne avevo una ma l'hanno detta ieri quella cosa lì di quello lì che è entrato in un posto, ha venduto il biglietto. Vabbè, dopo, ragazzi, fatto, ma quello lo fanno tutti, è un business, abbiamo capito, è un classico, sì, quella è una cosa di sopravvivenza, un classico, io non l'ho mai fatto, per esempio, è un classico, neanch'io devo dire, io non l'ho mai fatto, ne ho fatte altre, ma quella proprio no, è per questo che noi ti bullizziamo, Milan, perché non l'hai mai fatto. Comunque Milan, posso dirti una cosa, tu sei il secondo milanista che mi è simpatico, perché io sono di fede nerazzurra, quindi volevo dirti questo, non è una sviolinata, chi sarebbe, però il sei il secondo il milanista, un altro amico milanista, gli unici, va bene, gli unici che accetti, va bene, sì, Francesco, sì. Francesco da Roma, che sta a Bath e tiene l'Inter, ce l'hai tutte, insomma, va bene, grazie Francesco, ha, come dire, dato vita a questa nuova rubrica defurbizzati all'estero. No, scherzi. Francesco, ti mandiamo un abbraccio, ovviamente ascoltaci sempre, c'è una polemica sterile, la polemica sterile di Milan quando diceva che aveva sonno tutte le mattine quando si alzava presto per 24 mattino. Ho sonno anche adesso, peraltro. Però no, perché questa era una polemica non sterile, no, e la dimostrazione svegliati qual è? Tu alle 5, che, caro ascoltatore. Che adesso sei qui alle 9, ma quindi infatti, non è stata sterile. E ho comunque sonno, io ho sempre sonno, quindi è una condizione di vita. Su questo devo... credo che io e Leonardo possiamo comunque tenerti stretto. Ci scrive la Laura, Bath, bellissima cittadina, ci ho lasciato il cuore. Laura, che hai combinato a Bath? Non vogliamo saperlo. Come si vive a Bath? Buff. Ha detto no, anche non questo. L'ha detto insieme allo Shampoo Luke. Shampoo Luke, oggi due ne ha detto. Il traffico. Noi ci dobbiamo subire. Milan che ti rompe le palle. Sei mesi prima quando vai in ferie, sei dopo quando torna indietro. Sospira e piange. Ci dice che si alza al mattino regolarmente. Come io, ho 30 anni che mi alzo alle 5 del mattino. I funamboli. Allora, avevo spoilerato il finale prima senza saperlo, perché il signor Bonetti, Leonardo Manera, arriva qui e mica dice le cose preventivamente. Ma prima ci ha chiamato alle 10:20, poi ha fatto un'intemerata un minuto, ma adesso è qui con noi finalmente, Battista. Ecco. Anche se Peter Bescapè anche non mi manda la sigla, che non mi considera l'ultimo dei arrivati proprio, Peter. Sì. Ah. L'angolo del populista. Ma che bella. Non mi piace Peter Pescapè. Vado a pescare le luci, no, Pescapè, mi dai fastidio come persona. Sei sgradevole, Pescapè. Oggi ce l'ha con te, Peter. Comunque, cari Pescapè. Mina, è anche tanta gentile, tanta onesta, pare. Bisogna parlare dei problemi veri della gente, no? Oh, finalmente è arrivato lei. Qual è il problema vero della gente? Si è alzato in piedi, attenzione. Problema ma non è un comizio, Battista. Si è alzato in piedi, giuro. Guarda, Veronica, te lo faccio vedere. Si è alzato in piedi, guarda. No, è inutile che fai dell'ironia facile, no? Perché problemi veri della gente sono i campi rom. Che Salvini e dice che va a rasi al suolo con Erusp, ma io sono contrario, perché se mandi Erusp nei campi rom, distruggi anche tutta roba che ha rubato nelle case. Allora io dico, prima mandiamo le teste del cuoio a recuperare la furtiva e poi facciamo quello che si deve fare, capisci Mina? Sei d'accordo? No? Che è piena di refurtiva quella dei campi rom, no? Questo a volte è vero, questa volta. Il problema è che Italia è troppi stranieri, quando passo anche a Milano in via Paolo Sarpi e tutti i cinesi, adesso anche a Milano dei cinesi e si vedi i risultati, Mina? Anche l'Inter. Se va avanti così, Milan dei cinesi tra un po' chiude San Siro, la trasforma in una friggitoria, capisci? Ah. che è deludente come risultati, per non parlare anche degli altri stranieri, i negri e i negri, i negri che vengano qui, rubano le mogli ai italiani e poi le mogli italiani a noi italiani chiedono alimenti, invece ai negri chiedono i centimetri, capisci Mina? Adesso che è luogo comune, non è luogo comune. In Italia abbiamo tanti extracomunitari che la nostra compagnia aerea non si deve più chiamare l'Italia, si deve chiamare Alibaba, capisci? Perché è pieno di extracomunitari e tutti i tipi, i negri e le donne comandano il mondo, negri e femmine, anche la gentili no, che comanda il mondo. Beh, quello un po'. Ma cosa dici? Io non ho niente contro le femmine e gentili, però ormai le donne non pensano più a famiglia, pensano solo a stare in giro a fare aperitivi, che se va avanti così quando partorisco non è il seno, non viene più latte, viene a campare i soda, capisci gentili? Ormai il mondo lo comandano i negri, omosessuali, i gay. Io vedo, io i gay, io riconosco quando prendono il taxi, perché si profumano più delle femmine, che poi il tanfo di profumo resta nel taxi per una settimana. Infatti io i gay, quando mi trovo in taxi con loro, gli farei pagare anche il costo della disinfestazione del taxi. Io non ho niente contro i gay, anche quelli che fanno il gay pride, ma io dico che se Dio voleva che c'era il gay pride nel paradiso terrestre, al posto del serpente normale, metteva un boa di struzzo, capisci? Ah, Mina, il mondo è di quelli lì, le persone per bene non trovano lavoro. Chi trova lavoro? Chi trova lavoro? Chi trova lavoro? I drogati. Ma no, i drogati trovano lavoro, perché prima si drogano, poi vanno in comunità, si disintossicano, poi li mettono in una cooperativa e trovano lavoro. Perciò ormai il giovane, se vuole trovare lavoro, deve drogarsi, deve drogarsi. Disoccupazione. No, io mi dissocio da questo messaggio. Adesso vi saluto perché ho appuntamento con una prostituta nigeriana. Però io sono coerente, perché quando siamo lì che stiamo facendo le nostre cose, dico: guarda, che tu sei qui a rubare il lavoro alle prostitute italiane, perciò almeno fammi uno sconto. Comunque la vita è come un viaggio e prima o poi bisogna pagare il conto, il conto. Farò De Battista da Cavaillon Veronese. Pensa che saranno contenti a Cavaillon Veronese di avere un concittadino. Ma magari sono felicissime. Ma sai che Battista mi ricorda un po' a te? Me? Sì. Perché? No, ma così. No, ma no, dai, ma non dire così, non dire così. Allora, Leonardo Manera, signori, signor Bonetti. Oh, tra l'altro dobbiamo fare un annuncio. Tra N giorni, cioè non domenica questa, ma domenica 17 dicembre, torniamo con Platone al Teatro Manzoni. Ti è piaciuto, Veronica? Quando... Moltissimo. Ecco, sappi che a gennaio, credo, a gennaio toccherà a te stare sul palco, insieme a noi. Davvero? Davvero, davvero. Già a gennaio. Questa volta invece, per questa volta come ospite d'eccezione, sai chi ci portiamo sul palco? Chi vi portate? Fammi sentire un po'. Giuseppe Cruciani. No, il grandissimo Giuseppe Cruciani, la ma zanzara. Una serata memorabile. Di quelle soft, di quelle così soft. Una seratina leggera. Sì. Organizzeremo qualcosa con dei vegani anche, vediamo vegani. Un po'. Cari immagino. Vegani di tutta Italia al Teatro Manzoni di Milano. Ma invitiamoli veramente, se volete dicembre. Anche protestare contro Giuseppe Cruciani. Ci sta ascoltando il direttore del Manzoni, Alessandro Arnone, che salutiamo, è già preoccupatissimo. No, 17 già dicembre. Già vede la guerriglia, no? Sì, è una domenica alle 20.45, torna Platone, ci sarà anche Cruciani, oltre a vari comici, c'è Manera che conduce, ci sono io e via. Molto bello, uno spettacolo molto divertente. La rimettiamo. Abbiamo, come dire, abbiamo il benestare di Veronica, questo è... No, no, è vero, ragazzi, sono venuta lì apposta. L'imprimatur. L'imprimatur. Riconosciamolo. Deforbizzata. Boom. Allora, abbiamo terminato quasi anche per oggi. Domani c'è il meglio di... Noi stiamo a casa, ma staremo con voi in compagnia, vi faremo ascoltare delle cose belle. Ci saranno degli estratti, il meglio di noi, no? Il meglio di noi. Abbiamo fatto fatica, ci abbiamo messo giorni e giorni per trovare il meglio. Perlomeno abbiamo cercato di spurgare dalle parti peggiori, no? Salutiamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia, Alessandro Chiappini in regia a Roma. Salutiamo anche Elisa Pancaldi, che insomma... Certo, anche lei sì, un bel deve weekend. Deve tornare. In nostra assenza, mentre noi la aspettiamo. L'aspettiamo, noi non ci muoviamo da qui. Nel frattempo cercate di comportarvi bene durante il weekend, polemiche sterili sì, ma sì. Non troppe, perché se esagerate poi no, potrebbero farvi male alla salute. Questo per chi rimane in città il weekend in cui si comincia a preparare il Natale, fare qualche acquisto, qualche regalo, insomma, quindi grandi code e grande stress. Alberelli. Vi litigi, con... litigi nei centri commerciali, presepi, spinte, amore, fratellanza, odio, amicizia, sul fatto che sia l'albero che il presepe è troppo, l'uno o l'altro. Abbracci. empatia, felicità, stanchezza, amarezza. L'amore vince sempre sull'invidia e sull'odio, diceva. L'amore finisce sempre e comunque. I funamboli, no.